versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì 4 di luglio, sono le 16.35 e 30 secondi qui dagli studi Radio 24 di Milano. Milano piove, non so voi dove siate, quando io ringrazio di chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolta in podcast. Vi dico subito il tema della giornata per provare a vedere se volete chiamarci o mandarci messaggi. Per chiamarci 800 24 00 24, i messaggi lo sapete per chi ci ascolta sistematicamente, 349 238 6666. Oggi aspettiamo dalla voce di un italiano qualunque una storia normale, e ve la raccontiamo perché è la storia però di un bel po' di italiani, alcuni milioni, che ci sono trovati dopo la riforma Fornero, che ha alzato di botto l'età per i trattamenti previdenziali, equiparando in buona sostanza le vecchie pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia, che si sono trovati ad avere modificata la propria vita. E finché c'è lavoro per tutti, bene. Non stiamo parlando qui degli esodati per i quali avete visto 72 ore fa il governo ha messo su una nuova tranche di finanziamento, perché si stanno coprendo a fette i conti per miliardi di chi aveva firmato impegni di prepensionamento e poi si è trovato scoperto senza lavoro né pensione, ma con degli impegni per la mobilità che erano stati raggiunti. Qui stiamo parlando di chi dopo la riforma Fornero ha perso il lavoro e resta lontanissimo dalle soglie minime previste dalla riforma Fornero. E vi chiedo, se siete in questa condizione, avete parenti, amici, eccetera, eccetera, a distanza di tanto tempo dalla riforma Fornero, che ne pensate? Perché in Parlamento c'è anche chi, io non la penso così a dire la verità, però c'è anche chi, bisogna ricordarlo, per esempio l'onorevole Damiano del PD, una parte del PD, c'è la CGIL che lo chiede esplicitamente, tanti altri, c'è chi dice no, rimettiamo mano a questo meccanismo perché la crisi è troppo dura per consentirci di sottovalutare il problema di chi è rimasto a metà, perché il lavoro l'ha perso e non sa a questo punto come raggiungere i limiti che si sono alzati per la pensione, anche perché gli si chiederebbe di farlo versando dei soldi che, non avendo un reddito, non ha. Quindi mi interessa capire come la pensate su questa questione. Prima di presentarvi l'ospite, lasciatevi solo dire che oggi, per chi la pensa come me, minoranza assoluta, non statalista, il 4 di luglio è un giorno un po' particolare, perché si ricorda la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non si tratta di essere filoamericani. L'America ha sbagliato e sbaglia come tutti i grandi paesi nella storia, e come si è sbagliato magari anche un po' dopo l'11 settembre. Il punto è che nella dichiarazione dei diritti americani, là dove si difende il diritto dell'individuo, il suo diritto a perseguire la felicità, addirittura con una dichiarazione di diritti di questo tipo che non è uguale purtroppo nell'ordinamento costituzionale invece di tipo europeo e italiano, che parlano solo di diritti sociali, per me resta un esempio. Quindi questo è un giorno particolare. Io non sopporto il totus politicum della nostra concezione dei diritti pubblici. La mia opinione resta questa, che se tutto è politico allora i cittadini diventano dei postulanti dei governi, mentre invece l'impostazione americana, per cui vengono prima i diritti inalienabili dell'individuo e di tutte le sue libere formazioni, io credo che quella sia una libertà invidiabile, e secondo me bisognerebbe che noi continuassimo a rifletterci. A proposito di diritti e di felicità, senza il lavoro i diritti vengono meno e la felicità non c'è, come ovvio, perché manca il reddito. L'ospite di oggi, che è un nostro ascoltatore, che ci ha scritto una lettera, una delle tante, continuate a scriverci a versione di Oscar su radio24.it, e abbiamo preso questa lettera chiedendogli semplicemente: ma vuoi raccontare la tua storia ai microfoni e vedere come la pensano i nostri ascoltatori? Ecco, si chiama Paolo Prete, e io lo ringrazio molto, perché ovviamente bisogna anche capire che poi non è molto facile parlare di sé quando si tratta di vicende come queste. Nessuna vergogna e nessun problema, però parlare della propria condizione quando è disagiata e infelice non è mai una cosa facile, e io per questo lo ringrazio. Buon pomeriggio Paolo. Buongiorno Oscar. Allora, raccontaci un po' di te e della condizione che si è venuta a creare nella tua vita. Quanti anni hai? Io ho 58 anni attualmente. Sì. Fino a 3 anni fa ero responsabile di sistemi informativi in una ditta qui, si sentirà dall'accento, sono della zona di Treviso. Ecco, sei Veneto, perfetto. Questa ditta è fallita per eccesso di crediti. Sì. Come penso tantissime altre. Per fortuna eravamo più di 50 dipendenti, per cui abbiamo avuto i tre mesi, i tre anni di mobilità. Di mobilità, quindi non era un'aziendina, una microazienda. 50 dipendenti, insomma, era già una signora aziendina. Sì. Molti erano già andati via, vista la crisi, siamo riusciti a rimanere 50 e mezzo equivalenti full time. Sì. Cioè proprio appena il minimo per poter avere questi diritti. E a quel punto ti sei fatto ciò che prescriveva il nostro ordinamento in termini di ammortizzatori sociali, quindi la mobilità. Sì, io ero da prima della Fornero a casa, però mi ero detto fra di me, mi mancheranno a fine della mobilità un paio d'anni, mi pago un paio d'anni di contributi. Di contributi che ancora mi mancano, e chi si è visto si è visto. Così, tanto per dire, una situazione che era già modificata, perché rispetto ai 35 anni che io ho pagato tutta la vita per avere la mia pensione a 35 anni, già i numeri erano cambiati. 35 anni di contributi, naturalmente stiamo parlando. Stiamo parlando di 35 anni di contributi. Poi a quel punto interviene con te, che eri già in mobilità, quindi già a casa, però ti facevi questo conto prima della Fornero: mi pagherò due anni di contributi e a quel punto avrò maturato il diritto al trattamento previdenziale. Interviene la legge Fornero, e a quel punto in che condizioni ti viene a trovare? Ecco, io la settimana scorsa sono andato all'INPS e mi sono fatto fare un estratto conto. Il risultato è il seguente: io ho già 37 anni di contributi versati, quindi ampiamente più dei 35 di una volta. Sì. Poi e mi dicono: se vuoi ti paghi i contributi volontari, altrimenti andrai con la pensione di vecchiaia. Sì. Ecco, allora mi dicono di pagare i miei bravi contributi volontari per 6 anni ancora. Sì. Vista la Fornero. E questi contributi volontari, sarà perché avevo uno stipendio discreto? Non dico di no, però mi chiedono 4.750 euro ogni 3 mesi. Sì. Il che significa 19.000 euro all'anno. Sì. In 6 anni sono 114.000 euro. Che certo, non avendo un lavoro, non è proprio la cosa. Sì, perché io nei 6 anni, tra l'altro, dovrei anche vivere. Eh già. Diciamo che sono, da un certo punto di vista, rispetto ad altri, sono anche fortunato, perché non ho figli. Ho solo una madre che con problemi di demenza femminile, per cui sto facendo il badante al momento. Sì. E quindi economicamente con la pensione della mamma noi viviamo, però non mi sembra una gran soluzione. Dopo 35 anni di contributi versati, anzi 37. 37 anni 37. Di contributi versati. È una cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, è sempre il discorso che ti dicono che puoi andare dopo 96, il famoso discorso della somma dell'età anagrafica più gli anni di contributi. Perché tu attualmente, sommando la tua età anagrafica, se ricordo bene sono 58 anni, vero? 58? Esatto. 58 più 37 sei a 95. 5. Sei a 95. Però poi ti dicono, però l'età deve essere almeno 64. Sì. E allora dico io, questo parametro di età anagrafica più anni di contributi, che senso ha se metti un'età minima? E soprattutto se la metti in abbastanza alta, perché se io mi dovessi pagare i contributi volontari, diciamo che avrò 64 anni alla fine più 43 di contributi, arrivo a 107. E quindi il 96 sembra proprio una presa per i fondelli. Sinceramente. Tuttavia, se in Parlamento passasse la riapertura della quota 96 senza il limite di anni così alto, tu come la vedresti? Saresti favorevole? Sarei favorevole, perché fortuna che non sono mai stato uno spendaccione alla grande, per cui qualche soldino da parte dopo una vita di lavoro ce l'ho. A quel punto ce l'hai. Per un anno o due posso anche pagarmeli i contributi volontari. Ma per 6 è una cosa dell'altro mondo. Ah, e tra l'altro mi hanno detto che se non pago i contributi volontari li avrò nel 2023, la pensione a questo punto di vecchiaia, non di anzianità. Mm-hmm. Beh, certo, nel 2023 come dire proprio dietro l'angolo, nel senso tra 9 anni. Tra 9 anni, esatto. Però risparmierei 116.000 dei contributi. Certo. Beh, non mi hanno detto a quanto ammonterebbe ad oggi le due pensioni, per cui uno non riesce manco a farsi. E questo è un altro problema aggiuntivo. Ogni governo da 7 anni a questa parte, da 7 anni, da 2006, promette il famoso avvio almeno sperimentale della cosiddetta busta arancione. La busta arancione dovrebbe essere la busta che inizia ad arrivare a un po' di pensionandi non ancora pensionati, per fargli capire a quanto ammonta attualmente il calcolo attualizzato della sua pensione, contributi versati e così via. E naturalmente dopo 7 anni ancora questa sperimentazione non ce n'è traccia. Io penso, a dire la verità, che sia anche un modo duplice: primo, per non far rendere conto alla gente di quanto le aspettative, cioè la percezione della pensione maturata, sia molto diversa rispetto a quella che si riscuote. Uno, due, serve anche all'INPS per coprire un punto che a quelli come me invece sta molto a cuore: capire il netto che ogni anno resta di scoperto a carico della fiscalità generale tra monte dei contributi raccolti e monte dei trattamenti erogati, perché il nostro conto è intorno di 40 miliardi di euro l'anno. Gli statalisti e l'INPS dicono che non è affatto vero, dal bilancio dell'INPS non è così facile capirlo, ovviamente, perché si confonde i diversi trattamenti previdenziali con quelli assistenziali. La busta arancione aiuterebbe a capire anche questo, oltre ad aprire gli occhi sulla gente di che cosa davvero uno sta maturando. È inutile che vi dica che col sistema poi Dini le aspettative rimangono elevate, perché non si riesce a capire che non è più agganciato all'ultimo trattamento, agli ultimi trattamenti retributivi, ma è molto diverso il sistema, e che quindi solo se uno riceve la busta arancione riesce poi a farsi anche un pilastro, a convincersi, se ha il reddito disponibile adeguato, a fare anche un pilastro aggiuntivo di previdenza integrativa, perché altrimenti la pensione lo deluderà moltissimo. Allora, adesso abbiamo l'informazione stradale. Paolo intanto vi ha riassunto la condizione in cui si trova, poi nella seconda parte sentiamo un po' di messaggi ascoltatori e a questo punto gli faccio anche altre domande a lui. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare di chi, come il nostro ospite, si trova con una vita a metà, un ponte sospeso nella nebbia, non avendo più il lavoro ed essendo lontanissimo dall'aver maturato i criteri per i trattamenti previdenziali innalzati dalla riforma Fornero. Non stiamo parlando di esodati, stiamo parlando di chi ha magari esaurito a quel punto il percorso che aveva già iniziato in mobilità di ammortizzatori sociali, senza per questo aver firmato gli accordi di prepensionamento con i vecchi criteri che fanno rientrare automaticamente nella categoria degli esodati, per cui si continua a procedere per fette per garantirgli a quel punto il pensionamento. Ma stiamo parlando di italiani normalissimi che a quel punto hanno perso il lavoro, sono fuori dal circuito degli ammortizzatori e purtroppo senza lavoro come fanno a pagarsi gli anni e anni di contributi che sono necessari per avere diritto alla pensione con i nuovi tetti della riforma Fornero. Ci sono un bel po' di messaggi, ringrazio quelli che chiedono la mia schiena purtroppo è bloccata, ma rispetto a chi sta in ospedale, a malattie eccetera, avere un problema al coccio di non potersi muovere, mi scuso perché ieri l'ho detto, perché mi vergogno a dirlo rispetto a chi sta peggio, perché il mio pensiero va sempre a loro, a dire la verità. E c'è anche qualcuno che ci ascolta in ospedali e io sono molto felice se ci ascoltano, perché dovremmo fare tutti di più per chi sta peggio. Ecco, questa è la mia idea, quando mi è capitato questo ho pensato. Ma andiamo ad alcuni messaggi che ci arrivano invece su quello che ci ha detto Paolo. Ci sono moltissimi messaggi di ascoltatori. C'è un altro Paolo, per esempio, che dice: ho 61 anni, 40 anni di contributi, non possono andare in pensione. E vedo gente più giovane di me con meno anni di contributi invece in pensione. È uno schifo. Ecco, io per esempio questo problema posto da Paolo, cioè la dissimmetria dei criteri, lo condivido. Io penso che ci sia un gravissimo problema non solo tra le generazioni, cioè tra quelli che sono nel post-Dini rispetto al pre-Dini, o tra quelli che erano prima della Fornero e dopo. C'è anche un problema intergenerazionale, all'interno delle stesse generazioni, di criteri diversi. Secondo me è difficile accettarla questa cosa, ve lo dico con grande sincerità. Poi ci sono moltissimi messaggi che ribadiscono giudizi ferocissimi su Monti, la Fornero e così via, e questi li do abbastanza per scontati. Alcuni che dicono: ecco, questo di Paolo è un buon esempio del fatto che occorrerebbe una radicale riforma degli ammortizzatori attuali. Su questo sono molto d'accordo. Noi avremmo bisogno, il caso di Paolo che cosa ci dice? Ci dice che il vecchio criterio degli ammortizzatori sociali, cioè la somma delle tre diverse casse cassa integrazione ordinaria straordinaria e in deroga, più la mobilità concepita nel vecchio universo in cui si vendevano i posti di lavoro il più possibile dov'erano, e però non avevamo uno strumento universale di sostegno al reddito per chi non lavora e non ha i requisiti per la pensione, quel sistema è superato perché lascia centinaia di migliaia di persone scoperti come Paolo. Ecco, secondo me questa dell'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio è la questione, oltre a un punto critico su cosa fare verso chi ha, come nel caso di Paolo, 37 anni di contributi versati, lo vogliamo far aspettare 9 anni, visto che non può pagare i contributi, a quel punto dopo 9 anni che pensioni avrà? Ecco, ma la questione fondamentale è che lo strumento di sostegno universale al reddito di chi non ha lavoro e non può andare in pensione è un enorme punto aperto, e io francamente ve lo dico, poi do la parola a telefonate, non capisco i sindacati che vogliono continuare a difendere il sistema della CIG così com'è. Proprio mi è oscuro questo fatto, perché tende a voler tutelare i diritti di chi il lavoro ce l'ha ancora o pensa che una ristrutturazione nelle fabbriche, nelle aziende basti a preservarlo, ma dimentica chi sta fuori e non iscritto al sindacato, come Paolo. Questo è quello che penso io. Sentiamo Teresa da Genova come la pensa. Teresa, prego. Signor Giannino, buonasera, io sono una sommigatrice da vada al punto e la ringrazio. Senta, io comunque mi scusi ma ho il magone a sentire queste cose, perché io ho 59 anni, sì. Ho 36 anni, quasi 37 di contributi, sì. Ho lasciato io il lavoro per stare dietro la mamma malata e a quel punto ero una mamma anziana, mi sembrava assurdo andare a continuare a lavorare per prenderla, metterla in una casa di riposo, insomma, sì. Morale, questo è quello che penso io, mi sono accudita la mamma fino all'ultimo perché pensavo e speravo che comunque cioè di arrivare poi giusto poi in 36 anni di più i 60, perché io compio 60 anni fra un mese, morale della faccenda è successo questa vaccina della Fornero. Ora non sto a fare tutti i conti, perché tanto lei lo sa meglio di me. Allora, questa situazione, io mi ricordo quando vidi quella che piangeva, voglio dire, questa situazione mi ha portato una depressione incredibile. Per di più, proprio una depressione. Mi sento impotente, capisci? La mamma nel frattempo è mancata. Io sono sola, perché sono sola, e non ho di che vivere, mi creda. Non ho di che vivere, grazie a Dio, guardi, per di più adesso ho questa depressione, mi sento proprio col magone, no? Perché mi sento impotente, e in questa impotenza di non sapere cosa fare, cioè sapere cosa fare, aver voglia di andare a incatenarmi davanti, ecco, mi rende proprio questa depressione. Per di più, ultimamente sento che la pubblica amministrazione, per il rinnovo, tutte queste belle pagliacciate, cioè mandano in pensione quelli della pubblica amministrazione con delle pensioni milionarie, giusto per far entrare i giovani, che per carità, che ben venga questo, però non pensiamo invece a mandare Teresa, guardi, lei solleva un'altra questione che anche a me indigna, cioè per coloro che non hanno ancora maturato, sono a 5 anni dall'aver maturato nel settore pubblico la pensione, gli si dà un part time con la copertura integrale della pensione per fare quello che lei dice, cioè la staffetta generazionale, mentre nel frattempo a chi come lei, oltretutto con un carico parentale che lo Stato non era in grado di prendersi in carico, con 37 anni di contributi e 60 anni, la risposta è per lei niente, mentre invece per i dipendenti pubblici 5 anni prima della pensione gli diamo il part time, ma col contributo figurativo pagato da noi e anche da lei, Teresa, per avere la piena copertura previdenziale. Allora, questo è uno Stato accettabile? Secondo me no. Teresa, mi mandi però il suo indirizzo, perché ci terrei a scriverle anche privatamente, perché poi so cosa vuol dire il magone, però qualche cosa proviamo a fare comunque, Teresa. Franco da Udine, come la pensa, Franco? Buonasera, dottor Zannino. Beh, sì. La mia storia assomiglia molto a quella di Paolo. Io ho 51 anni con 35 di contributi, ho accettato la mobilità di Italia della mia azienda perché ero ai ferri corti. Però ho detto, prendo, faccio questi qua, assommo sempre se sia così, e poi la mobilità, vado in pensione, mi pago, certo. Faccio qualcosa, c'era anche qualcosa del vecchio deputato, non so come si chiama, Damiano del PD, che mi sembra che ha fatto un certo qualcosa, un certo scalino, insomma, vabbè. Dopodiché faccio questa mobilità, salta fuori la Fornero, prima fregatura. Nel frattempo comunque mi ero raccordato con due aziende per andare a lavorare da loro. Nel frattempo della mobilità è tutto. Queste due aziende che purtroppo lavorano anche per lo Stato non solo non mi hanno assunto me, ma hanno dovuto barare anche loro, proprio perché tutti credono che lo Stato non glieli paga, no? Certo. Quindi quindi doppiamente fregato. Quello che anche io non accetto, qui siano cittadini di serie A, di serie B. No, è bravo, bravo, esattamente. Questa è una questione di fondo. Aspetti un secondo perché c'ho pochi secondi, ma Alessandro da Savona, che mi dicono un sindacalista, mi preme sapere e dargli qualche secondo prima di concludere. Alessandro, prego. Buonasera Giannino, molto semplicemente vorrei solo fare un punto di chiarezza sul discorso di quanto uno versa e di quanto uno riceve. Chiaramente l'unico riferimento a cui possiamo citare è la famosa aspettativa di vita. Certo. Di fatto a oggi, e con la riforma Fornero, un esempio può essere il mio ma come di tanti, 52 anni, esatto, e 32 di contributi, sì, più o meno devo fare 44 anni e 9 mesi, perché... Sì. Dalla base di partenza dei 42 anni. E questo lo sappiamo. Rispetto a questo, lei dice, Alessandro? Perfetto. Quando uno paga 45 anni di contributi e va in pensione a 65, ha un'aspettativa di vita che oggi è 78 anni, certo, quindi paga 45 anni e riceve 13 di pensione. Ergo. Provocando uno sbilanciamento di contributi versati di 200.000 euro nel caso di una retribuzione media di 2.000 euro. Ultimi 5 secondi e non mi resta che dire che riprenderemo il discorso, visto le telefonate, continuate con Radio 24, appuntamento con me a lunedì, buon fine settimana.